Parole in effetto, qua germo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare, di capire in passato è solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione, in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare. Non esiste antidoto e la morte mentale. Opponi resistenza, non farti plagiare. Se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare. Preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire, pensare e parlare, esplorare ogni capanna del villaggio globale, spalancare le finestre alla comunicazione personale, aprire il canale universale, dare fondo all'arsenale di parole soffocato dalle ragnatele di un'intera generazione di silenzio. Questo è ciò che penso, la vita è la mia scuola, do potere alla parola. Potere alla parola, sì? Dai potere alla parola, tu. Potere alla parola, sì? E vai con potere alla parola nella casa. E allora, ciao, bentornati, bentrovati a tutti gli amici, amiche, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Wombat. Siete sempre qui nello spazio radiofonico della stampa rassegnata e appunto ancora un salutone, sperando che ci stiate ascoltando nelle frequenze medie liberate da Radio Wombat alla modulazione del 1359, oppure che ci stiate ascoltando nella diretta del lunedì alle 15.30, oppure attenzione nelle repliche che andranno in onda da questa settimana il mercoledì alle 22.30 o il giovedì alle 8.30 di mattina. Quindi c'è stato questo cambio nella programmazione di Radio Wombat per fare spazio a nuovi spunti, nuove trasmissioni, nuove partecipazioni, per allargare un po' e diversificare gli orari, sperando che ci possiate trovare e ascoltare in di più, cambiando anche i giorni della settimana e appunto gli orari. Niente, questi sono appunto i saluti di rito. Dopo i saluti di rito, due parole per dirvi che in questo spazio radiofonico, come sapete, facciamo delle riflessioni, dei commenti rispetto a quelle che sono le notizie di cronaca che escono nella cronaca locale, dei giornali di cronaca locale, con principale riferimento a due vicende che stanno animando da anni l'area metropolitana fiorentina, che sono l'opposizione popolare alla costruzione dell'inceneritore di Case Passerini e più in generale le lotte e le vertenze sul ciclo dei rifiuti e appunto le battaglie in avanti rispetto a quella che potrebbe essere considerata la ricerca e lo sviluppo di alternative concrete, appunto sempre nell'ambito della questione dei rifiuti. E l'opposizione popolare all'aeroporto, alla costruzione del nuovo aeroporto intercontinentale di Peretola, con tutti gli annessi e connessi di cui abbiamo parlato abbondantemente e continuiamo a parlare, non possiamo farne a meno, tenendo conto della centralità sistemica che lo sviluppo e la costruzione di questo aeroporto avrebbe non solo rispetto alla città di Firenze, ma a tutta l'area metropolitana fiorentina, e in termini di cementificazione, in termini di infrastrutturazione, in termini di nuova edilizia, in termini di problematiche ambientali, sociali e non ultimo anche la questione delle risorse pubbliche e delle risorse collettive che vengono bruciate o verrebbero perché ancora siamo alle fasi ancora istruttorie, nonostante le pressioni delle controparti. Questa settimana ci muoviamo su avvenimenti e appunto articoli di cronaca che vanno dal lunedì 23 aprile fino più o meno a sabato 28, domenica 29. Ci occuperemo di quello che ci sembra più interessante, più rilevante, quello che poi è anche un po' alla portata di me che parlo e che sulle notizie cerco di fare commenti e riflessioni, mi auguro non banali e non scontate. E niente, questa settimana vorrei cominciare con una notizia che potrebbe fare da snodo, perché riguarda una famiglia importante, una famiglia di notabili, la quale ha avuto in questa settimana una perdita, c'è stato un lutto in famiglia e da questa perdita vediamo se mi riesce di dipanare tutta una serie di riflessioni che in un modo o nell'altro, per casualità e contingenze che spesso nella vita appunto si trovano, ci permette di intrecciarci con altri fatti che ci riguardano da vicino. L'articolo rispetto a quello che è accaduto e di cui andrò a parlare lo prendiamo dal Corriere Fiorentino, poteva essere la Nazione, poteva essere la Repubblica, non importa, in questo caso la prendiamo dal Corriere Fiorentino per dare la notizia, come diciamo spunto così di approfondimento, se vogliamo, di riflessione, senza sfociare in riflessioni di tipo metafisico, guardiamoci bene dal non entrare in quel tipo appunto di iperuranio delle idee e per rimanere e fare riflessioni di tipo materialistico, sappiamo ovviamente che non tutte le morti sono uguali, ci sono morti che contano, morti che contano molto meno, morti che non contano affatto, non stiamo dicendo assolutamente niente di nuovo, da qualunque tipo di cultura o ambiente, veniate, voi che state ascoltando, insomma è evidente, è notorio che le morti non sono tutte uguali, dipende chi sia stato in vita e non siamo qui a parlare di morti per il gusto di farlo, ma si parla di morti per parlare ai vivi e gettare uno sguardo su quella appunto che è la vita dei vivi e l'organizzazione sociale che rende queste morti così diverse. Lo abbiamo visto per quanto ha riguardato ormai un mesetto fa la morte di Idi Diene, il ragazzo, ormai neanche ragazzo, il signore senegalese, il venditore ambulante che sul Ponte Vespucci è stato sparato, e tutta la vicenda legata al lutto cittadino che il sindaco Nardella non ha dichiarato per un'intera settimana, in qualche modo offuscandolo anche dietro il lutto invece cittadino legato alla morte del capitano della Fiorentina Davide Astori. Lutto cittadino che poi è stato recuperato nella settimana successiva, quando ormai c'era già stata la grande manifestazione del sabato. Quindi, insomma, una vicenda che ha messo in evidenza come ci sono vite che sono quelle dei migranti regolari o meno, perché ricordiamolo sempre, Idi Dien era un immigrato completamente regolare da anni in Italia, tra l'altro anche ben inserito nella nostra comunità per quella che può essere la vita di un venditore ambulante che risiedeva a Pontedera, dove stanno moltissimi, molti e molte uomini e donne senegalesi, diversi dei quali poi, come sappiamo, vengono, diciamo, a fare da lavoratori pendolari e vengono nell'area metropolitana fiorentina per vendere le merci che, insomma, incontriamo e troviamo in tutti gli angoli di strada. Quindi questo è una delle tante. Un'altra riflessione la vogliamo gettare guardando questi articoli rispetto alla morte di Fulvia Ferragamo Visconti, la signora che disegnava la seta. Questo è il titolo del Corriere Fiorentino del 26 aprile. La signora è morta nel giorno della liberazione dell'Italia dal nazifascismo nel 25 aprile. Quarta dei figli di Salvatore e Wanda, dal 1970, punto di riferimento della Maison. Vi leggerò alcuni stralci, appunto, ripeto, non per necrofilia, ma per tenere di conto qual è il tono con cui si ricostruiscono i passaggi di vite considerate importanti, di persone che stanno ovviamente sotto i riflettori e che fanno le nostre società, che diventano punto di riferimento per gli uomini, le donne in formazione, soprattutto per i più giovani, che in qualche modo sono vite che possono diventare modello, possono ispirare, mentre altre sono poco più che macchine che si spengono. Dice il Corriere ricordando la signora Ferragamo. È entrata nell'azienda di famiglia nel 1970, seguendo le orme di Fiamma, cui Babbo Salvatore all'età di 16 anni chiese di lasciare la scuola per aiutarla nella maison, quindi già non è un luogo di lavoro a casa, non è un laboratorio, non è un'officina, ma è una maison. E da allora Fulvia Ferragamo, quarta figlia di Salvatore e Wanda Miletti, è stata un punto di riferimento della casa di moda, che oggi fattura ricavi per 1,4 miliardi di euro. Fulvia Ferragamo si è spenta a Milano, dove abitava da tempo con il marito, il conte Giuseppe Visconti, avvocato conte, sottolineiamolo. Appassionata di arte e disegno, Fulvia si è impegnata con dedizione nel lavoro e nel business, contribuendo con i fratelli a fare della Salvatore Ferragamo uno dei campioni della moda italiana, con cuore e produzione, saldamente ancorati in quella Firenze, dove il babbo Salvatore, il calzolaio delle stelle, scelse di continuare la sua attività nel 1907 di ritorno da Hollywood. Ecco, qui c'è anche così in parentesi la, come dire, l'autoracconto, l'autonarrazione di sé, un po' con il mito del self-made man che tanto piace ai capitani di industria, no? Quell'uomo che fa il ciabattino, l'umile ciabattino per le star e poi insomma fonda una grande casa. E c'è qualcuno che vuole anche continuare a crederci. E sono appunto i valori che, con i quali queste persone girano le scuole raccontando che la chiave del successo è solo il proprio impegno, che nella vita si premia solo la meritocrazia e insomma altre amenità del genere. Profondamente credente, pellegrina sul cammino di Santiago di Compostela, attiva anche nelle attività sociali e nelle organizzazioni umanitarie, ci mancherebbe altro. Il gruppo Ferragamo da sempre fa donazioni a lungo termine a organizzazioni no profit e non governative, con due obiettivi: promuovere la cultura italiana e migliorare la salute dei bambini e donne. Spiegava: mio padre, Salvatore, diceva che moda e cultura sono legate inestricabilmente. Il nostro lavoro è necessariamente ricerca la bellezza e la bellezza apre il tuo cuore e solleva lo spirito. Fulvia ha avuto la gioia di vedere impegnata in azienda anche la figlia Angelica, sposata con Francesco Ruspoli, decimo principe di Cerveteri, che si occupa del retail e che appena 6 giorni fa è stata nominata membro del nuovo consiglio di amministrazione della Salvatore Ferragamo SPA. Quindi abbiamo appunto così letto degli stralci, non era tutto l'articolo, ma credo che il tono apologetico e, come si dice con parole colte, agiografico, cioè nel tentativo di raccontare al meglio la vita della persona che non c'è più, sia del tutto evidente. Lo vorrei mettere in relazione con quello che invece è un altro fenomeno, ripeto, non sto dicendo niente di particolarmente creativo, intelligente o nuovo perché di come va il mondo, mettiamola così, tutti ne siete assolutamente edotti, però visto che nella stessa settimana tra gli articoli di cronaca ci sono anche le denunce della CGIL in materia di infortuni gravi e morti sul lavoro, la cosa cade, diciamo, a fagiolo per fare questo raffronto. La CGIL appunto nei due articoli. No, scusate, nell'articolo io l'ho spezzato in due, ho detto due, ma è un articolo solo che invece va su Repubblica il 27 aprile del 2018, lancia in qualche modo la giornata del 1° maggio, che quest'anno verrà dedicata alla questione dei morti sul lavoro e dei gravi infortuni. Ci sono delle interessanti, direi, annotazioni, commenti di Mauro Fuso, che è responsabile salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per la CGIL Toscana. E Mauro Fuso spiega, senza mezzi termini, che in certi casi gli incidenti sono diminuiti, ma è perché con la crisi era diminuito anche il lavoro. Siamo preoccupati di cosa succederà con la ripresa. Gli incidenti aumentano, ma diminuiscono le denunce. Perché? Dice Fuso, perché i giovani sono precari e dunque ricattabili e gli anziani devono continuare a lavorare per arrivare alla pensione. Quindi sostanzialmente ammette Fuso che la precarietà rende ricattabili sia gli anziani che pur di arrivare alla pensione stanno zitti e non denunciano eventuali problemi, rischi legati alla sicurezza, sia i giovani che appunto invece per mantenersi il lavoro sul quale potrebbero voler fondare una certa sicurezza di reddito per il proprio futuro, restano anch'essi zitti. Oltretutto, il mondo è cambiato. Anche il lavoro è cambiato. L'unica cosa che resta sempre uguale a se stessa sono gli incidenti sul lavoro. Dove e come avvengono, come spiega ancora Fuso, avvengono nei settori tradizionali e nei modi classici. Due, dice il sindacalista, sono le categorie di incidenti più diffuse: quelli derivati dalle cadute dall'alto e quello negli spazi chiusi dove le sostanze gassose provocano esalazioni o esplosioni. In quest'ultimo caso, poi, i morti si moltiplicano fino a comprendere anche chi si butta per salvare le vittime. Qui c'è un chiaro accenno, per esempio, alla vicenda tragica della ThyssenKrupp di Terni, che alcuni anni fa vide appunto degli operai rimanere vittima insomma, dell'infortunio anche nel tentativo di salvare i propri compagni di lavoro. Aumentano anche gli infortuni su strada, ovvero chi fa lavori di spostamento, la logistica, la trasportistica, le spedizioni e anche chi trasporta se stesso. Il lavoro è sempre più precario e part-time, spiega Fuso. Così, per far quadrare il bilancio, spesso uno fa molti lavori diversi e deve spostarsi di continuo dall'uno all'altro, o in scooter o auto, con conseguenze a volte disastrose. Tutto questo lo ammette candidamente, diciamo, il rappresentante appunto di CGIL, nel mentre lancia questo primo maggio, tra virgolette, di mobilitazione, lo mettiamo tra virgolette perché, come sempre, quando troviamo delle dichiarazioni della CGIL, ma ovviamente anche di CISL e UIL, e intorno alla vicenda e alla data del primo maggio non potevano mancare, teniamo sempre conto che sono i sindacati concertativi che da decenni ormai, senza offendere nessuno, li possiamo considerare parte del problema e non della soluzione. Quindi il primo maggio dedicato al lavoro, laddove i problemi della sicurezza del lavoro, giustamente, in modo assolutamente logico, il signor Mario Fuso li riconduce alla precarietà lavorativa, ci domandiamo con che tipo di, come si può dire, di coraggio, mettiamola così, rimanendo in CGIL e assumendo dentro questa organizzazione concertativa che negli anni ha, permesso, attraverso un'opera di assoluto imbonimento della classe lavoratrice, ha permesso la svendita dei vecchi diritti, delle vecchie conquiste, dallo statuto dei lavoratori in poi ad oggi, e ha gettato la classe operaia, sia quella che fa lavori manuali e che apparentemente, ma solo apparentemente, è quella che rischia di più perché fa lavori dove si spostano carichi, si lavora con sostanze nocive, si lavora con appunto attrezzi, attrezzature spesso pericolose e sulle quali la manutenzione è a volte molto spesso scarsa, ma solo apparentemente sono quelli che rischiano di più, perché come abbiamo visto anche dall'articolo e dalle loro stesse dichiarazioni, nel momento stesso in cui del lavoro fa parte integrante lo spostamento all'interno delle aree metropolitane, il rischio connesso al lavoro e allo spostamento per il lavoro allarga, il rischio e la pericolosità del lavoro a tutte le categorie, compresi quelli che fanno lavori apparentemente privi di rischio, i freelance, i lavoratori del, diciamo, quelli che, sui quali si è parlato di cognitariato, i lavoratori dei servizi che facciano servizi terziario avanzato o arretrato, i lavoratori della scuola, della conoscenza, chiunque si sposta per lavorare. Rischia e rischia per lavorare, non per altro. Quindi non c'è nessuna categoria del lavoro che è esclusa e esonerata da, appunto, dai rischi connessi a tutto questo, senza pensare anche al capitolo degli infortuni e delle malattie professionali che la precarietà rende sempre più difficile farsi poi riconoscere. Comunque, detto questo, cioè dette cose che sostanzialmente sappiamo, volevo andare a guardare i numeri e come si parla di queste morti a livello giornalistico e di cronaca, dopo aver letto la geografia della morte di Fulvia Ferragamo, andiamo a vedere, dopo aver detto che attraverso i dati raccolti dall'Osservatorio Indipendente di Bologna, messo in piedi su iniziativa di un compagno una decina d'anni fa, proprio per ricordare i morti dell'acciaieria ThyssenKrupp di Terni, di cui ho fatto una brevissima nota poc'anzi, che conta dal 1 gennaio del 2018 al 28 aprile 215 morti sui luoghi di lavoro in Italia. Queste sono le statistiche dell'Osservatorio Indipendente di Bologna che, Come è facile immaginare, essendo un lavoro indipendente e in qualche modo scevro dall'interesse di occultare o minimizzare il fenomeno, conta annualmente sempre qualche centinaio di morti in più rispetto a quelli che conta l'INAIL. C'è ovviamente sui numeri la questione è sempre molto complessa, però insomma diamo per buone le statistiche e il conteggio che ha operato questo osservatorio indipendente di Bologna, che conta ad oggi già 215 morti sui luoghi di lavoro, e che comunque, a prescindere dal conteggio dei numeri, senza entrare in una polemica e rifiutando anche poi tutto sommato un mito del numero e della cifra. Quindi non lo siamo mai stati, è una piccola parentesi che la chiudiamo subito, però non siamo mai stati dei mistici del numero. C'è come si potrebbe dire, una cultura che in qualche modo fa del dato statistico un vero e proprio culto, si va chiamando dataismo addirittura, cioè nel senso una filosofia di pensiero che vede nel numero la sola vera realtà. Ovviamente invece i numeri vanno interpretati, vanno saputi interpretare, e anche la loro interpretazione poi è oggetto di discussione, ovviamente di politica, cioè si conta una cosa in un modo o in un altro anche in base a ciò che vorremmo fosse la realtà. Questa forzatura che tutti operiamo, e che non, pensare di non operarla è appunto un mito della neutralità che non esiste e ricacciamo, quindi prendiamo per buoni appunto i numeri di questo osservatorio indipendente tenuto da questo compagno, che ci dice che in Toscana sono ad oggi già 13 i morti, di cui due nella provincia di Firenze. Chi sono questi due morti nella provincia di Firenze? Un signore, un operaio di 54 anni, che è morto il 16 di gennaio, tra l'altro allo Smannoro in via del Cantone, lavorando per la famiglia Ferragamo, per l'appunto. Un altro invece è uomo che muore il 29 marzo del 2018 a San Gaudenzio, in località Fiera di Poggi. Di queste due morti ho ricercato delle notizie di cronaca per fare, appunto, ripeto, quel confronto di cui già sappiamo l'esito tra la morte della signora Ferragamo e le morti operaie. Allo Smannoro, malore sul lavoro, morto operaio 54enne. Un operaio di 54 anni è morto questa mattina mentre era al lavoro a Sesto Fiorentino in via del Cantone, in zona Usmannoro. L'uomo, dipendente di una ditta edile, stava effettuando dei lavori in una sede della casa di moda Ferragamo, quando intorno alle 7:30 di mattina è stato colto da malore. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo, purtroppo inutilmente, sul posto anche i carabinieri. Da accertare le cause della morte, il corpo del 54enne è stato portato al reparto di medicina legale di Careggi per essere sottoposto ad autopsia, come disposto dal PM di turno. E invece, San Gaudenzio, incidente sul lavoro, mortale, operaio perde la vita cadendo da un traliccio, è il 29 marzo 2018. La notizia circolava da questa mattina tra Dicomano e San Gaudenzio, in provincia di Firenze, ma la conferma è arrivata solo questa sera. Questa mattina un operaio ha perso la vita dopo essere caduto da un traliccio intorno alle 11:30 in località Fiera dei Poggi, nel comune di San Gaudenzio. L'uomo sarebbe originario del Napoletano e avrebbe 52 anni. Secondo il sito della Nazione, l'operaio stava effettuando con altri colleghi dei lavori a un traliccio per la telefonia per conto di una società telefonica. Avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto a terra facendo un volo di 4 metri. L'operaio è morto sul posto. Sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118. Il PM di turno ha disposto il trasferimento della salma all'Istituto di Medicina Legale dell'Ospedale Fiorentino di Careggi e il sequestro dell'area di proprietà della RAI, dove è avvenuto l'incidente. Ecco, queste sono le notizie, queste sono appunto le... Non c'è nessun riferimento alla vita di queste persone, è una descrizione fredda e da gazzettino di quello che è l'incidente, senza entrare nel merito. Non ci si sbilancia mai verso quelle che potrebbero essere le responsabilità, e si spengono così le vite di questi lavoratori di 50 anni, dei quali possiamo tranquillamente pensare che ne avessero già una trentina buoni di lavoro sulle spalle, si spengono come si rompono le macchine, non molto di più. E poi, per concludere questa cosa, come ho detto, c'era al centro la famiglia Ferragamo, perché uno dei due operai, ripeto, muore mentre lavora in appalto, ma comunque per loro. C'è poi una via di mezzo, come dire, tra, la morte dei signori, la morte dei servi, c'è qualcuno che ha un trattamento leggermente diverso. Tutto questo, credo così, a conferma di un medioevo che non è mai del tutto finito, no? Un medioevo tecnologico, un medioevo fortemente infrastrutturato, un medioevo informatizzato e digitale, ma che nelle gerarchie, sociali, appunto nel suo assetto, ricorda veramente quello che alle scuole medie studiamo come, appunto, come medioevo. E a metà, ripeto, tra, proprio i servi della gleba, quelli che lavorano sui tetti, quelli che sudano, che toccano sostanze nocive e quelli che invece comandano e che di tutto questo, non hanno sostanzialmente nessuna idea, ci sono altre figure, ci sono quelle dei servi fedeli, di quelli che, hanno passato una vita appunto di fedeltà e la cui vicinanza al potere, una vicinanza certo da lavoratori, mettiamo bene in chiaro le cose, gente che ha lavorato, che non si è, confusa poi più di tanto con questi soggetti, per i quali ha lavorato, però insomma gli è stata abbastanza vicina da meritare post mortem qualcosa di più che un semplice commento. E per esempio è il caso del signor Settimio, una notizia di cronaca locale che avevo selezionato mesi fa, della quale non avevamo mai parlato, ma che oggi ritiriamo fuori perché appunto è interessante rispetto a questo discorso. È stato citato anche nell'articolo, rispetto alla morte di Fulvia Ferragamo e, lo vado a riprendere per sentire come si commenta, sempre dal Corriere Fiorentino, che evidentemente ha un rapporto, davvero privilegiato con la famiglia Ferragamo, sempre dal Corriere, la morte di Settimio. Addio a Settimio, il custode da film dei Ferragamo. Quindi non è un lavoratore semplice, è un custode da film. Ad assumerlo come portiere di Palazzo Spini-Feroni, che sapete si trova, diciamo, di fronte alla colonna dei Tornabuoni, è visibile anche dal Lungarno, uno dei palazzi più imponenti, più importanti, più impressionanti anche da un punto di vista estetico, ricco, pieno di, opere d'arte e di cose molto interessanti da tutti i punti di vista, che ospita tra l'altro da mi pare una ventina d'anni almeno il Museo Ferragamo nel piano terra. Quindi ad assumerlo, 42 anni fa, era stata la signora Wanda Ferragamo con il ragioniere Giuseppe Anichini, storico collaboratore della Maison. Si definisce sempre Maison quella dei Ferragamo, non è una semplice attività, non è un'impresa, è una Maison, quindi è sempre qualcosa di più. Da allora e fino allo scorso venerdì, quando è mancato per un male incurabile, Settimio Cosci, aretino di nascita e fiorentino d'adozione, è stato, oltre che custode di fiducia del prestigioso immobile dal 1938 sede del Marchio, simbolico guardiano delle trasformazioni della Ferragamo. Quindi le ha viste passare un po' tutte, è un simbolico guardiano, oltre ad essere custode di fiducia. Azienda è nata come impresa familiare ed evoluta nel 2011 in SPA. Ha sempre legato la sua crescita alla storia delle persone che hanno contribuito alla sua vita. Stretto nella sua livrea, ricorda Leonardo Ferragamo, uno dei fratelli, Settimio è stata una persona di fiducia per la mia famiglia, un lavoratore infaticabile e gentile. Mai un no. Sapeva con il suo sorriso silenzioso accogliere chiunque accedesse a Palazzo Spini-Feroni, dipendenti come ospiti internazionali. In molti ricordano la puntualità con cui ogni mattina si faceva trovare sul portone, pronto a ricevere la signora Wanda, che dal 1976 ha seguito con dedizione e scrupolo. Credo che gli aggettivi li avete sentiti, ho cercato di enfatizzarli un po' anche con la voce. È così, un ricordo dolce e tenero, quello che i padroni, dopo 42 anni di lavoro, rivolgono a questa persona che è stata così di fiducia. Non è, il mio un tentativo di offendere in nessun modo la memoria del signor Settimio, che, ripeto, ha lavorato 42 anni e quindi merita comunque tutto il nostro rispetto, ma è per riflettere su quelle che sono, ripeto, le gerarchie. Questa famiglia, quella dei Ferragamo, che più volte si è detto, è stato ripetuto in questo momento, no? Quindi questo rapporto di fiducia con i lavoratori, questa grande umanità, il ruolo di elargizione nei confronti di organizzazioni umanitarie, no profit, quindi l'idea che appunto ci sia una responsabilità sociale di impresa che permette anche una redistribuzione della ricchezza, soprattutto dove? Proprio in quella Firenze, attraverso il cui capitale simbolico, i Ferragamo si concedono operazioni di marketing territoriali molto forti. Eppure, proprio per tornare sempre sulle nostre vicende, uno degli esponenti di questa famiglia, che è Ferruccio Ferragamo, è stato protagonista nel dicembre del 2017 della manifestazione che ha portato gli imprenditori davanti all'aeroporto di Peretola. La manifestazione per il sì all'aeroporto, per la trasformazione del piccolo, tutto sommato, ma neanche troppo piccolo, ricordiamolo, aeroporto di Peretola in un aeroporto intercontinentale. Ecco, la convinzione evidentemente di questa famiglia, che si colloca insieme a tutti gli altri industriali, di cui parleremo anche tra breve per un'altra importante iniziativa che hanno messo in campo, è quella, è la convinzione di tutti i pro crescita, la convinzione strenua che più quantità di una stessa cosa risolvano i problemi. Cioè loro come azienda di moda fanno scarpe, gadget e altre cose, quindi evidentemente la loro idea è che tutti i problemi della società saranno risolti attraverso una crescita lineare e progressiva delle loro produzioni e dei loro redditi, che poi potranno essere redistribuiti anche in forme di elargizioni e quant'altro. Noi in questo senso non vediamo le cose nella stessa forma, anzi non vediamo alcuna tenerezza e alcun buon rapporto con la propria città, laddove si pretenderebbe di infilare la famosa pista dei 2400 metri in barba, tra l'altro, a moltissime prescrizioni di tipo tecnico che sono e contengono in sé anche aspetti politici, come abbiamo più volte detto, e non vediamo appunto alcuna dedizione a questa città nel momento in cui ci si comporta così. Non solo, nel momento in cui questa azienda è stata forse l'unica ad oggi che ha messo in campo anche un'iniziativa abbastanza concreta proprio nel tentativo di forzare la mano rispetto alla decisione e agli enti e agli organi che stanno ancora, diciamo, tenendo sotto osservazione la pratica di autorizzazione per il nuovo aeroporto intercontinentale. Mi sto riferendo al fatto che nell'inizio, tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, proprio la Salvatore Ferragamo SPA ha contattando il rettore dell'università che ha, secondo noi, scandalosamente concesso questa operazione. Praticamente hanno piantato un bosco urbano, così lo hanno definito, in un pratone, in due pratoni che sorgono e che separano il CNR, il Centro Nazionale delle Ricerche, e il Polo Scientifico di Sesto Fiorentino. Hanno fatto piantare queste piante anche ai loro dipendenti, dimostrando in questo il tentativo di coinvolgere e cooptare anche le loro maestranze. E, ovviamente operazione che non possiamo ve che vedere legata al tentativo appunto di forzare le decisioni rispetto all'aeroporto. Il discorso, diciamo, qual è? Essendo che una delle principali vicende legata alla possibilità o meno di costruire l'aeroporto è la presenza del Parco della Piana e del Bosco della Piana in termini di compensazioni rispetto alla futura eventuale produzione di inquinanti da aerei, la Salvatore Ferragamo SPA ha realizzato questa operazione in un'ottica ben precisa, cioè nel dire intanto il bosco lo facciamo noi, l'aeroporto lo vogliamo noi, che siamo gli stessi che se da una parte vogliamo forzare la pianificazione territoriale espropriando cittadini, comuni, enti e corpi intermedi delle istituzioni competenti da ogni capacità pianificatoria, però dall'altro siamo gli stessi che abbiamo la buona coscienza di farvelo subito il bosco. Quindi non c'è da aspettare la politica, la burocrazia con tutte le sue lungaggini. Lasciateci fare perché noi sappiamo come fare, cioè sappiamo fare affari, ma vi facciamo anche il boschetto. Questa chiaramente è stata un'iniziativa sulla quale abbiamo posto un po' di attenzione, non è sfuggita neanche agli studenti del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino che da anni hanno espresso la loro contrarietà già ai tempi del precedente rettore e fatto contestazioni, riunioni, assemblee, partecipato alle iniziative più generali lanciate dal movimento No Inceneritori e No Aeroporto e che appunto hanno diciamo impacchettato il cartellone pubblicitario del bosco urbano di Ferragamo denunciandone appunto l'aspetto strumentale rispetto appunto all'idea di forzare i tempi. Questo era, insomma, è stato un lungo commento intorno a questa famiglia che ricorda un po' Dynasty, per chi ricorda i tempi della televisione e delle soap opera, ricorda un po' Dynasty o Dallas, una di queste famiglie notabili, che però ci ha permesso di intrecciare diverse riflessioni dipanate a partire appunto dalla morte di Fulvio Ferragamo. Chiudiamo con questo, ricordando e dando un abbraccio, un saluto, un pugno chiuso a tutte le vittime del lavoro e anche a quelle della strada che spesso e volentieri si confondono e si sovrappongono a quelle del lavoro. E un'altra notizia invece, come più volte vi ho detto, ci muoviamo in modo non necessariamente cronologico, come ho già fatto, dal 24 aprile, notizia sia della Repubblica, insomma, che compare sia diciamo, su tutte le cronache locali, facciamola più breve di così, dal Corriere Fiorentino ve la prendo. Il 24 aprile del 2018, superato il limite in due condomini a Quaracchi, troppo rumore, multato l'aeroporto. Troppo rumore su due condomini sorvolati dagli aerei e ARPAT ha multato la società che gestisce il Vespucci, che è Toscana Aeroporti. A darne notizia è ARPAT, a seguito dei controlli effettuati dall'agenzia. È risultato che per due complessi residenziali, situati nell'ambito di Quaracchi tra via Madonna del Terrazzo 7 e via Bruno Buozzi 6, continua a essere superato il limite massimo di rumore previsto dalla legge e dalla classificazione acustica dell'area intorno allo scalo. La criticità dei due palazzi e la necessità di provvedere al risanamento acustico era stata segnalata da ARPAT già nel maggio 2015, sulla base dei dati disponibili, e gli sforamenti sono stati confermati anche nel 2016, con 65,1 decibel in via Madonna del Terrazzo e 67,4 in via Buozzi, contro il limite di 65 decibel che è fissato per legge. ARPAT ha dunque chiesto di integrare il piano di abbattimento del rumore approvato nel 2008, in modo che fossero adottate misure di risanamento acustico anche per i due condomini che prima del 2015 non erano stati segnalati. E dato che Toscana Aeroporti non ha provveduto entro i 18 mesi dalla data dell'accertamento, limite fissato dalla legge, ARPAT ha elevato una multa che può arrivare a svariate migliaia di euro, chiedendo di intervenire rapidamente sul problema. Esultano i comitati della piana contrari all'ampliamento dell'aeroporto, ma la multa di ARPAT è in realtà proprio uno spot alla nuova pista parallela. Quando sarà realizzata, le nuove rotte faranno passare gli aerei lontani da quei condomini. Ecco, infatti, diciamo questa è la notizia, il commento, la chiosa del Corriere Fiorentino purtroppo coglie diciamo, l'aspetto realistico e reale della vicenda, cioè come è stato più volte detto, queste prescrizioni, questi piani di abbattimento del rumore non sono nuovi, diciamo che dovrebbero valere almeno dal 2003, quando c'è stato il primo variazione master plan che aveva posto l'allargamento, il primo allungamento della attuale pista perpendicolare all'autostrada, quindi è già stata allungata una volta e già allora nel 2003 ci furono delle prescrizioni di cui ho già parlato in alcune delle stampe rassegnate precedenti e alle quali vi rimando se avete maggiore curiosità, proprio perché le avevo lette direttamente dai documenti che da alcuni esponenti dei comitati erano stati dopo molto tempo finalmente erano riusciti a entrarne in possesso e finalmente erano stati pubblicati. Purtroppo purtroppo non è un caso, come ha detto anche il giornale, il Corriere Fiorentino, che è ad oggi che vengano fuori queste cose e ad oggi che vengano comminate delle multe. Quindi molta attenzione. In realtà il commento su esultano i comitati della Piana diciamo è una furberia del giornale perché non ha esultato nessuno, cioè furbi non sono solo quelli i giornalisti del Corriere Fiorentino, ma insomma non siamo cretini nemmeno tra comitati e abbiamo capito esattamente il gioco, cioè ad oggi, nel momento in cui si spinge fortemente per la realizzazione della nuova pista, si ammette pubblicamente, fino al punto di multare Toscana Aeroporti per i piani antirumore che non esistono, e si ammettono le criticità dei sorvoli sulle zone di Teretola, Brozzi e soprattutto Quaracchi. La questione delle misurazioni antirumore era stata in qualche modo anche un capitolo, un cavallo di battaglia del nostro lavoro dal basso dei comitati, perché avevamo più volte denunciato e posto la possibilità di organizzare delle campagne di automonitoraggio del rumore, cosa della quale abbiamo cominciato a fare solo dei piccoli esperimenti, ma tanto basta per diciamo, la controparte per muovere le proprie pedine. Proprie pedine di cui purtroppo in questa situazione vediamo far parte anche ARPAT, quello che dovrebbe essere un ente pubblico, quello che dovrebbe essere l'Agenzia Regionale per l'ambiente e il territorio, che anziché sorvegliare e farlo in modo puntuale e soprattutto preventivo sulla salute delle popolazioni, arriva non solo fuori tempo massimo, perché dal 2008 ad oggi sono già 10 anni e dal 2003 ancora di più sono 15, ma arriva in modo strumentale, evidentemente, purtroppo manipolata dall'intelligenza politica di qualcun altro. Qualcun altro che chi è se non, come avevamo introdotto già nell'ultima parte della stampa rassegnata della scorsa settimana, è Confindustria, è Camera di Commercio, è la Confcommercio, sono i grandi marchi che non si sono vergognati proprio in questo diciamo fine di aprile 2018 di far nascere e dare vita al Comitato per il Sì. Comitato per il Sì al nuovo aeroporto, che vede primi in testa a tutti la Confindustria guidata da Bassilichi, o come lo stiamo così con un nomignolo rinominando Bassilic, perché fa un po' il verso a Diabolik, a Paperinik, insomma ce lo vediamo con la mascherina che cerca di togliere, però non di togliere ai più per dare ai meno, ma ovviamente per togliere alle più. No, sì, scusate, ho detto giusto, proprio per togliere ai più, nel senso numerico del termine, perché ruba alla maggioranza degli abitanti e dei cittadini e delle classi lavoratrici, per dare ai meno numericamente, che però sono quelli che, ahinoi, hanno di più e che non gli basta mai, come in una devastante patologia mentale, che però pare essere la normalità delle nostre società, quindi malati dell'accumulazione di denaro e di capitale in lotta e in competizione, e il carburante per questa competizione globale che questi capitani d'industria ingaggiano è proprio la piana, è proprio il territorio, è proprio la città di Firenze, non solo Firenze, ma tutta l'area metropolitana, in particolare il quadrante nord-ovest, di cui sempre cerchiamo di dare notizia e che continueremo a difendere. Quindi il Comitato per il Sì all'aeroporto, che purtroppo, proprio come più volte anche su questo avevamo già detto, trova degli alleati, purtroppo qualcuno anche all'interno delle classi popolari, proprio tra gli abitanti di Peretola, Brozzi, Quaracchi e Le Piagge, quegli abitanti che per anni sono stati sorvolati, sui quali prima Aeroporto di Firenze, poi Toscana Aeroporti ha costruito una politica di imbonimento e di marketing, fatta attraverso il finanziamento di piccole e squallide iniziative, come alcune migliaia di euro per la festa di Carnevale, che poi diventano crocette o quant'altro, lo sponsor delle squallide squadre, i medicei di rugby e altre iniziative del genere. Questa politica appunto di controllo delle masse attraverso l'elargizione di denaro è un classico, una classica strategia, come appunto, come ho già detto, insomma, senza ulteriori specifiche, perché è già evidente a chi ascolta. È stata messa efficacemente in pratica da Toscana Aeroporti fino ad arrivare all'oggi, all'oggi in cui si propone questa pista parallela e si cerca di convincere la popolazione che la pista parallela porterà un vantaggio in termini di sparizione dei sorvoli, e quindi al comitato per il sì partecipano purtroppo anche gruppi di cittadini di quella zona dell'area metropolitana fiorentina, raggruppati intorno a un, diciamo, un fenomeno social mediatico che è la pagina Facebook Viva la Nuova Pista. Prima iniziativa di questo comitato, tanto per non smentirsi mai, è una riunione kermesse al Palaffari di Firenze. Si riuniscono giustamente perché parlare di aeroporto per loro è parlare di affari. Vuole essere una risposta non diretta e non indiretta, ma appunto una risposta diretta alla presentazione dei ricorsi al TAR fatta dai 7 comuni della Piana Fiorentina. Questa risposta sarà una kermesse appunto propagandistica organizzata da Confindustria, Camera di Commercio, Confcommercio, CNA ed altre categorie ovviamente interessate allo sviluppo dell'aeroporto, e l'idea è quella della costruzione di un grande comitato pro aeroporto, che poi è anche un comitato pro crescita, intendendo con crescita quello che già abbiamo detto prima, cioè l'idea che più cose dello stesso tipo, insomma, risolvano i problemi, e non ci sembra affatto così. C'è proprio bisogno di ridisegnare un altro territorio, non solo in virtù di quella che è l'emergenza sociale, ma forse addirittura in modo ancora più prioritario rispetto a quelle che sono le previsioni del disastro e della crisi ecologica che stiamo vivendo, di un pianeta che non riesce più a assorbire gli inquinanti e non riesce più a fornire materia da trasformare nell'energia che un sistema di vita sempre più energivoro consuma, consuma e consuma per riprodursi, lasciando aperte contraddizioni inesauribili che prima o poi devono essere affrontate. Il 7 di maggio, quindi è un lunedì, alle ore 19, c'è la prima riunione di questo comitato. Ripeto, è evidente che la dicitura comitato è uno squallido tentativo, neanche poi di grande particolare intelligenza, di raccontarsi come qualcosa di popolare, quando in realtà si è la parte più ricca della popolazione, alla quale forse potranno aderire o partecipare alcuni poveri illusi di alcuni quartieri dell'area metropolitana fiorentina. Si ritrovano lì, ma è già annunciata da parte dei comitati e delle esperienze di base che stanno lottando in questi anni contro l'affarismo e la speculazione sui territori, una contestazione con pentole e coperchi. Quindi alle ore 18 tutti e tutte in piazza Bambini di Beslan, o comunque seguite i siti, spazi, web, pagine Facebook per informarvi su questa manifestazione, perché è Confindustria che vuole mettere le mani sui territori, e dall'altra parte chiaramente sono i comitati, dei cittadini e gli abitanti auto-organizzati. E l'ultimissima notizia sulla quale vorrei così fare appunto un breve commento, anche per ragioni di tempo, è quella legata ai lucchettoni. Più che altro perché ci fa ritornare in mente delle cose intorno a questa vicenda, che è quella diciamo, posizionamento di barriere antiterrorismo, antisfondamento in alcune parti considerate strategiche del centro fiorentino. È stata fatta una gara di idee, un artista ha proposto l'installazione di come si potrebbe dire, appunto, di barriere che hanno la forma di lucchetti con fiori. Si va ad affiancare, e ci ricorda i giorni tristi in cui Nardella metteva la tutela delle fioriere davanti al diritto sacrosanto alla rabbia da parte dei senegalesi nei giorni in cui ho già ricordato Idi Diene fu sparato sul ponte Vespucci, ma insieme a questo c'è anche appunto il dibattito estetico sullo statuto estetico e la bellezza del centro, se questi lucchetti sono adatti o non sono adatti, se piacciono o non piacciono, insomma si sprecano pagine di inchiostro di giornale su questa, appunto, su questa forma, sulla adattabilità o sulla dignità dei lucchetti posti su Firenze, viene fuori il tema del amore, quindi l'amore per Firenze, l'amore per la pace, quindi questo lucchetto d'amore che incatena la pace a Firenze, Firenze alla pace, e quindi si entra nell'ambito della metafisica, si sparano parole una dietro l'altra. La chiudo con questo solo per ricordare che l'amore, l'edilizia, il cemento, che fossero barriere o lucchetti d'acciaio o case o abitazioni, in qualche modo a Firenze si sposa, l'amore si sposa con l'edilizia da tempi non sospetti e per chi ha la memoria lunga se lo ricorderà, per chi non lo sa la metterò anche come immagine del, diciamo, pubblicitaria di questa stampa rassegnata, la figura del Mura Amore, che fu la campagna con la quale l'assindustria di Firenze diciamo, promuoveva lo sviluppo della città. Amo Firenze, il mio lavoro, sono un muramore, muratori di soddisfazione. Questa era la campagna che mi pare fosse il 90, insomma, era la fine degli anni 90, l'inizio dei 2000. A Firenze era sindaco Domenici e già il cemento, già il tondino, già l'edilizia, già le costruzioni ispiravano l'amore e la città. Quindi queste cose si vanno insieme da diversi anni e sono tornate come aspetti così, come dire, retorici, culturali dentro il dibattito giornalistico intorno a questi lucchettoni, dei quali, appunto, come sempre, ogni cosa che succede nel centro c'è un sovradimensionamento mediatico impressionante e non potete, non aprire i giornali senza incappare in foto di questi lucchetti, foto tra l'altro tutte esattamente uguali, come se fossero con il copyright, però insomma grandi che campeggiano ovunque a superare ben altre notizie e ben altro tipo di informazioni. Quindi era sindaco Domenici, al quale è succeduto poi Renzi, al quale è succeduto Nardella, chissà chi verrà, però insomma cemento e amore a Firenze vanno a braccetto. Un saluto a tutti voi, pugni chiusi, alla prossima stampa rassegnata. Ciao ciao!